9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e per questo venerdì di fine agosto abbiamo deciso di anticipare quello che troverete sui giornali da domenica in avanti, per qualche giorno campeggiare con ampio spazio nelle prime pagine, perché domenica è atteso in Italia il leader della Giamahiria libica, Gheddafi, ed è atteso perché è il secondo anniversario nel trattato con cui nell'agosto 2008 è stato posto fine tra la Libia e l'Italia al lunghissimo contenzioso post-coloniale. E in questo secondo anniversario i rapporti ottimi personali tra Gheddafi e Berlusconi inducono nuovamente il leader libico a venire in Italia, con l'ampio contorno che abbiamo iniziato a connettere sempre alle sue visite internazionali, non solo a Roma ma a Parigi e così via. Quindi una tenda, perché il leader ha bisogno di riprodurre qui il suo habitat naturale, e poi ci saranno l'incontro ufficiale, con tanto di manifestazione, con cavalieri berberi che si esibiranno all'interno della caserma Salvo d'Acquisto a Tor di Quinto, caserma dei carabinieri, in cui poi ci sarà la cena ufficiale, l'incontro. L'agenda, come sempre, di Gheddafi in Italia è ancora un pochino col punto interrogativo, perché ricordate che nel 2009, in occasione dell'analogo incontro, fu un'agenda movimentata, perché doveva parlare in Senato, ma poi una parte dei senatori, una parte della sinistra, si oppose alla concessione dell'aula al leader libico. Ci fu poi un incidente, perché poi alla fine non si capiva se andava, non andava, non andò. Detto questo, intorno all'amicizia speciale tra Gheddafi e Berlusconi sono sempre fioriti articoli di colore, ma nella sostanza, dopo il trattato, che ricordo a tutti ha come punto cardine per la risoluzione delle controversie, e cioè per consentire all'Italia di vedere finalmente la Libia impegnata, per esempio, nel controllo dei flussi di clandestini, che come un rubinetto veniva lasciato aperto ovviamente dalla Libia, perché l'Italia capisse che ci si aspettava che mettesse mano al portafoglio perché i libici interrompessero quel tipo di traffico di carne umana. In cambio, il più degli impegni economici riguarda naturalmente la realizzazione di questa autostrada costiera, 1700 km a carico di imprese italiane in pregilo, e altre. I proventi di questi investimenti dovrebbero venire da una specie di sovrattassa petrolifera che si impone all'Eni italiano. Si è molto parlato, poi grande missione internazionale anche di Confindustria in Libia, di come radicare ulteriormente le nostre imprese in quel paese. Detto tutto questo, negli ultimi mesi, come avete visto, alla saldezza di questo rapporto si è aggiunto il fatto che la seconda banca italiana, cioè Unicredit, ha in realtà chiesto appunto a capitale libico e a veicoli finanziari libici di garantire, per così dire, l'autonomia della banca, cioè di crescere nel capitale di Unicredit insieme al capitale di Abu Dhabi, di diventare praticamente il primo azionista, perché qualcuno delle fondazioni italianissime, che poi si dividono, diciamo, il capitale di blocco attraverso cui si controlla Unicredit, magari nominate nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non più da amministratori locali affidabili ma dai leghisti cattivoni che hanno preso troppi voti nel nord, non pensasse di attentare l'autonomia della banca. Quindi, insomma, se noi chiediamo al capitale libico, che già in tempi storici salvò la Fiat, ricordate, di essere il presidio a garanzia dell'indipendenza della seconda banca italiana, vorrà dire che, al di là del colore su Berlusconi, in realtà anche la comunità finanziaria considera la Libia non affidabile, ma affidabilissima, più affidabile addirittura degli amministratori che sono individuati dalle fondazioni italiane. E del resto avete letto sui giornali di ieri che Cesare Geronzi, l'ex presidente di Capitalia, ex presidente di Mediobanca, attualmente presidente di Generali, non ha avuto dubbi nel dire che i libici nel capitale, anche presenti all'epoca di Capitalia, sono stati i miei migliori azionisti. Giudizio di Cesare Geronzi, trovate su le agenzie di ieri e sui giornali di oggi, in vista della visita di Gheddafi, le dichiarazioni dell'ambasciatore Libico in Italia, Gadur, che sottolinea come sono numerose, sono più di 20 le società quotate in cui la Libyan Investment Authority, la Libyan Arab Foreign Investment, la Banca Centrale hanno rilevante quote di capitale, e insomma mi pare che il rapporto, già storicamente in realtà ben incardinato con il capitale libico, perché l'operazione Fiat risale ormai a 25 anni fa, alla luce del nuovo trattato di 2 anni fa, ha consentito di incardinare i rapporti su una reciproca soddisfazione. Allora, la domanda che ci poniamo oggi è: questa speciale partnership, in realtà, quanto è davvero nell'interesse dell'economia italiana, delle imprese italiane, delle banche italiane? Quanto possiamo dirci soddisfatti di ciò che la Libia ha fatto davvero per cooperare a una miglior sicurezza della sponda sud del Mediterraneo nei confronti dell'Italia? E poi, dal punto di vista internazionale, nel quadro dell'evoluzione delle ripercussioni che potrebbero esserci dalla sponda sud del Mediterraneo presto, pensiamo al post Mubarak, che purtroppo potrebbe diventare da un momento all'altro una realtà un po' incandescente, la Libia e la giameria di Gheddafi è affidabile? Quanto è affidabile? La recente guerra con la Svizzera, che l'Italia ha visto l'Italia appunto impegnarsi in un ruolo di intermediario, non testimonia forse che il colonnello poi non cambierà mai nella sua strategia di tirare la corda, minacciare e sapere lambire tutte le corde della debolezza dell'Occidente? Oppure realisticamente è semplicemente un leader con cui la cosa migliore è trattare seduti in una tenda con un pacco sulle spalle, sapendo che questa è un'antica maniera di trattare, dove la parola sì è una, ma possono essere 5 e possono essere domani 25, e l'essenziale però è continuare a pronunciarla, perché è meglio parlare che poi bombardare. Ecco, tanti possono essere i punti di vista. Mi interessa sapere come, in previsione della visita, vi acconcerete a vedere le immagini e a leggere gli articoli, che saranno molto di colore, perché in questo Gheddafi sa come impressionarvi, che leggerete sui giornali. Chiamateci e intanto vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Abbiamo collegato con noi il senatore del PDL, membro della commissione esteri, Luigi Compagna, che ho voluto qui non solo perché ho una grande stima, ma perché si batte con una certa coerenza e intransigenza, anche se con equilibrio, non è un estremista, a favore delle ragioni di Israele. Quindi è un punto di vista, diciamo così, italo-mediterraneo, ma non precisamente non caratterizzato. E ringrazio per questo, senatore Compagna. Buongiorno. Buongiorno. Enrico Morando, senatore del PD. Che ringrazio, perché appunto la sinistra e altre parti dell'opposizione, ma insomma il PD, un anno fa hanno animato una parte delle proteste, delle speech di dissensi nei confronti della politica di Gheddafi e di tutta questa attenzione, per riceverlo così. Grazie al senatore Morando, buongiorno. Buongiorno. E come analista politico e strategico, come bastone, per così dire, per consentirci di inoltrarci in tutta l'analisi di ciò che cos'è, di ciò che è e ciò che fa la Libia di Gheddafi, oggi Alessandro Politi, che è analista politico appunto di lungo tempo e grande esperienza. Grazie Alessandro Politi. Grazie a voi, buongiorno. Io comincerei proprio con Politi, nel senso che dal trattato a oggi, se dovessimo fare un bilancio di ciò che nel reciproco interesse i due paesi hanno messo a segno, chi ci ha guadagnato di più? L'Italia dal punto di vista dello spianamento delle relazioni, sì, insomma lo sviluppo di grandi affari, si vedrà, perché per il momento poi parole e parole, ma si è visto poco, oppure in realtà è Gheddafi che ha sistemato un fianco delicato dei suoi rapporti politici attraverso Berlusconi? Ricordo a tutti che si sta parlando, tra l'altro, della stampa dei nuovi passaporti libici, in cui l'ambasciatore Gadduri ieri ci ha informato che verrà impressa una fotografia di Gheddafi e di Berlusconi, quindi il passaporto libico porterà l'effigie di Berlusconi stampata a fianco a quella del leader della Giammeria. Ma chi ci ha guadagnato di più, Politi? Credo che, come tutti gli accordi, soprattutto di questi tempi, indipendentemente dai regimi politici, uno può partire da alcuni dati positivi sapendo che sono effimeri. Strutturalmente la politica estera italiana è cambiata dal 1989, quindi dal crollo del muro di Berlino oggi. Quindi se prima eravamo i bulgari della NATO e amicissimi, tanto amici degli Stati Uniti, oggi gli Stati Uniti sono sì sempre molto importanti, ma in realtà i nostri grandi amici sono in larga parte gli ex impresentabili di una volta. E questo è il caso della Libia. Noi siamo stati buttati fuori dalla Libia, dagli anglo-americani, subito dopo la decisione di Gheddafi di pagare le sanzioni di Lockerbie. E indipendentemente dal fatto che noi avessimo contribuito in modo molto attivo a far cambiare idea in qualche modo al leader libico. Quindi il primo punto positivo è per l'Italia, sia strategico, quindi recuperare una presenza e un'influenza in Libia che avevamo da decenni, e in secondo luogo per la sopravvivenza di questo governo, perché eliminare una quota del 10% visibile di immigrati che arrivano con i barconi, lasciando invece passare il 90% con i normali visti turistici, è molto vendibile elettoralmente. Quanto agli affari, si sa, sono cose di lungo periodo. Ricostruire praticamente l'autostrada Balbia dei tempi del fascismo, da una costa all'altra, diciamo, da una frontiera all'altra lungo la costiera libica, è un'impresa lunga. Vediamo come vengono erogati i fondi e soprattutto alla fine chi paga, se pagano i contribuenti, se è un 50-50 o se è qualche altra fantasiosa soluzione finanziaria, visto che tranne i petrostati tutti gli altri sono abbastanza indebitati. Morando, come si accinge il PD a valutare la visita di Gheddafi in corso rispetto alle polemiche invece animate un anno fa? Ma mi sembra che rispetto ad un anno fa la visita sia impostata su basi un poco più ragionevoli, mettiamola così. L'altra volta la mia insurrezione, diciamo, assieme a quella di tanti altri parlamentari, ci fu quando si diffuse la notizia, che fino a pochi giorni prima della visita non si conosceva, che Gheddafi avrebbe parlato all'aula del Senato riunita per ascoltarlo. Poi abbiamo visto che cosa ci avrebbe detto. Ora, nell'aula del Senato, francamente, un discorso nel quale fondamentalmente un autocrate come Gheddafi, violatore di diritti umani tra i peggiori, diciamo, che ci sono in giro per il mondo, spiega che cos'è la democrazia ai parlamentari italiani, mi sembrava francamente troppo. Questa volta non è previsto, se ho capito bene, nulla di tutto questo. Sopra lo sviluppo dei rapporti che devono essere positivi tra Italia e Libia non ho obiezioni. L'altra volta l'insurrezione fu dovuta semplicemente a quello che ho spiegato. Bisogna parlare con tutti, noi abbiamo interessi strategici in gioco, ci sono questioni di rapporti commerciali ed economici di grande rilievo che debbono essere regolate, meglio se sono regolate discutendo che non positivamente, che non litigando. Riconoscere a Gheddafi uno status di leader democratico che ci può insegnare che cos'è la democrazia, francamente mi sembrava troppo, continua a sembrarmi troppo. Credo che nello sviluppo di questi rapporti un qualche spazio, come le grandi nazioni democratiche sempre sono capaci di riservarsi, per, diciamo, una critica serena e fondata sopra la mancata tutela dei diritti umani in Libia, ci dovrebbe sempre essere. Posso chiedere ancora a Morando una cosa prima di inoltrarmi poi nel punto di vista di Compagna? Se dovesse dare così un'equilibrata impressione, perché Morando poi non è persona che si butta in polemiche facili, più è un uomo di numeri, rigoroso, lo conosciamo ai nostri microfoni e glielo riconosciamo sempre come caratteristica, però se dovessimo dare un giudizio di come è migliorata o evoluta in questi ultimi anni, al di là del colore di Gheddafi, la capacità della politica estera italiana di tenere i rapporti con la sponda sud del Mediterraneo rispetto, per esempio, a quella circostanza che richiamava Politti, cioè che dopo lo Kirby gli angloamericani ci hanno dato, per così dire, con i servizi, con la loro politica muscolare, una bella spallata, tentando di impadronirsi dei rapporti loro di nuovo con la sponda sud del Mediterraneo. Se dovessimo dare fuori dai denti una valutazione di quello che sta facendo l'Italia su questo, con un occhio anche al post Mubarak dell'Egitto, con un occhio al nuovo round convocato, non so con quanta serietà di premesse, tra Israele e palestinese, lei che voto darebbe all'evoluzione della politica estera italiana in questi anni sotto Berlusconi nel Mediterraneo? Ma tutto sommato su questo aspetto un voto di sufficienza, sarebbe un voto più positivo se avessimo saputo fare quello di cui ho appena parlato, cioè accompagnare lo sviluppo di relazioni che debbono essere positive, abbiamo interesse a che siano positive, con i leader di questi paesi, che sono quasi sempre leader poco democratici, diciamo, salvo poche eccezioni, e tra i quali Gheddafi è certamente tra i peggiori da questo punto di vista lo sviluppo di relazioni che premessero in direzione di un'evoluzione il più possibile, non dico di democratica, ma insomma di maggiore tutela dei diritti umani in questi paesi. Se colloco però questa valutazione specifica in un contesto più ampio, io in questo momento sotto la leadership di Berlusconi vedo uno squilibrio a favore dei rapporti con autocrati, cioè Putin e Gheddafi in particolare, che invece mi piace assai di meno. Cioè se assumo un'ottica limitata al Mediterraneo vedo una positività che non ho nessun imbarazzo a negare, ma quando vedo che sostanzialmente l'Italia, per delle ragioni che in parte anche mi sfuggono, per la verità, o almeno sfuggono a un dibattito trasparente, squilibria le sue relazioni così vistosamente a favore delle relazioni con autocrati come Putin e come Gheddafi, in quel caso allora la valutazione diventa più severa. Bene, a fianco agli elementi che stiamo mettendo sul tavolo, le dichiarazioni di Tariq Ben Ammar, trovate sul Corriere della Sera oggi in economia, la Libia non scalerà mai Unicredit, la Lega non abbia paura, a me fa un po' sorridere questa maniera per cui il capitale libico viene considerato una specie di elemento a tutti i titoli facente parte della dialettica politica italiana, e non posso fare a meno di riderci perché, avendo passato la mia giovinezza all'epoca in un partito politico che mi rapì l'anima, sto parlando del PRI di Ugo La Malfa, ricordo come a noi giovani repubblicani ci colpisse e ci affascinasse in una maniera strepitosa l'idea che quando appunto la Libia fu convocata d'urgenza nel capitale della Fiat, molto periclitante all'epoca, Ugo La Malfa, che aveva un rapporto storico solidissimo con Enrico Cuccia, il grande vate, l'officiatore riservato dei patti di sindacato che contavano l'Italia di allora, che era un'Italia ancora esclusa dalla libertà del flusso dei capitali, quindi il regime amministrativo dei capitali, era un'Italia molto chiusa nel suo orticello, e in quell'orticello c'erano pochissimi patti di sindacato che contavano, le cui chiavi stavano appunto nelle mani di Enrico Cuccia, e il primo di questi praticamente era quello Fiat, che alternativamente nel tempo lo vedeva protagonista di mettere anche minoranza, è capitato più di una volta, gli stessi Agnelli nel comitato strategico della loro stessa azienda. E di fronte al fatto che fosse necessario convocare il capitale libico per dare solidità al capitale finanziario della Fiat, visto che la famiglia non aveva i denari per capitalizzare in quel momento, Ugo La Malfa, che pure aveva un rapporto storico strepitoso con l'avvocato Agnelli e ancor più con Enrico Cuccia, fece attendere di fronte ai nostri occhi manifestamente per circa 2 ore l'avvocato Agnelli nella modestissima sede nazionale del PRI, fuori dalla sua porta, per far vedere a tutto il mondo in piccolo che lui era contrario a che il capitale libico entrasse nella Fiat, di cui pure riconosceva la strategicità. Altri tempi, altri uomini, altri linguaggi e posture politiche rispetto a quelle di oggi. Senatore Compagna, siccome ho voluto raccontare questo aneddoto apposta, un po' perché davo la parola a lei, se invece lei dovesse dare un giudizio e un voto sull'evoluzione della politica italiana nei confronti di Gheddafi in questi anni, con un occhio soprattutto di chi è attento a Israele e a quel che non mi sembra molto che stiamo facendo invece per tenere un po' più in considerazione questo paese che ci avrà presto un Iran nucleare e con una Turchia che gli ha volto le spalle, con l'Europa che ha spinto in realtà la Turchia a volgere le spalle, che voto darebbe a questo colorito leader libico che col colorito leader italiani sembra andare sempre meglio d'amore e d'accordo, molto più che con tutti i suoi partner della maggioranza probabilmente? Un voto se non di insufficienza, certamente di insoddisfazione, ma da questo punto di vista, nella sensibilità alla democrazia israeliana, più in generale alla diffidenza verso gli autocrati, le mie valutazioni, i miei stati d'animo sono abbastanza analoghi a quelli del collega Morando. Ovviamente nessuno di noi due ha lo stesso pathos, la stessa passione dello stupendo aneddoto di Ugo La Malfa, nel quale poi qualche mese dopo, come aneddoto dell'aneddoto, si inserì l'ignobile rappresaglia libica sgonfiata, però subita dalla Fiat e dalla stampa nel caso dei due elzeviristi Frutteo e Lucentini, non a caso entrambi repubblicani. Ma venendo ad oggi, siccome molto si è parlato delle patenti di affidabilità che che... Temo, senatore Compagna, che raccontata così l'abbiamo capita solo io e lei, però, perché i nostri ascoltatori non sono così addentro. Quindi cosa fecero i libici a Fruttero e Lucentini? Fruttero e Lucentini furono fatti accomodare in panchina, almeno come zelinisti, da un direttore, Arrigo Levi, tutt'altro che succube alla proprietà, tutt'altro che insensibile alle ragioni, mo ci vuole, israeliane e occidentali, perché avevano ironizzato in un pamphlet elettorale, erano entrambi candidati del PRI, sul rapporto La Malfa, Agnelli, Gheddafi, esattamente, e via dicendo. E questo non onora la tesi di quelli che persistono sulla affidabilità delle autocrazie a prescindere. Ma dicevo, venendo oggi, oltre a queste patenti di affidabilità riconosciute dai Profumo, dai Geronzi, eccetera, poi c'è l'autentico ruolo di capo addetto stampa e propaganda del trattato che assume l'Ente Nazionale Idrocarburi e il suo presidente. Ora, da questo punto di vista, non voglio esagerare e dare una portata eccessiva a questo rapporto francamente sguaiato con Gheddafi. Voglio dire però che dal punto di vista degli interessi italiani è troppo vistoso quanto viene privilegiata una dimensione contingentemente affaristica sull'oggi e sul domani e quanto è stata invece sacrificata, fu la ragione che portò me ad astenermi in Senato nel voto sul trattato, quei legittimi interessi di italiani di generazioni precedenti, quella di Morando e mia, e i quali sono stati, furono affidati allora a un volonteroso ordine del giorno e a un disegno di legge Baldassarri che naviga ancora fra molte difficoltà. Ecco perché mi auguro che in questi giorni si sia un po' meno sguaiati di quello che fu l'Italia istituzionale. Ecco, però qui rispetto alla ricostruzione dell'amico Morando, ha ragione Morando nel ricordare la minaccia che ci fu di far parlare Gheddafi di democrazia nell'aula del Senato, però a me fece lo stesso una pessima impressione farlo parlare a Palazzo Giustiniani con Andreotti e Scalfaro che si andavano ad assicurare un'ora e mezzo prima il posto a sedere, costo libico che fece aspettare tutte le autorità italiane moltissimo tempo, e poi soprattutto si scatenò a Roma tutta quella compagnia dialettale di servilismo, di diplomazie parallele, di regioni, province, comuni, eccetera, che spero nei prossimi giorni, complice anche l'agosto, non vedere riallineate e di assistere quindi a uno spettacolo di maggiore sobrietà. Beh, lei certo sa che c'è un comune nel Lazio che deve gran parte dei suoi recenti investimenti al fatto che il colonnello una volta gli si fermò l'automobile e di fronte al fatto che gli fosse in attesa dell'automobile ripartisse, guardando questo comune disse: ma come si chiama quel posto, eccetera, e da allora quel comune deve molto alle attenzioni del colonnello Gheddafi ed è molto grato. Quindi sa, la diplomazia un po' di chi fa parallelo concorrenza a quella nazionale un po' è volta a questa stessa cosa, sperare che qualche goccia delle risorse libiche e delle attenzioni libiche si sposti verso l'Italia dei mille campanili. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della prossima visita, domenica inizia la visita di Stato nel secondo anniversario del trattato di amicizia, pace e cooperazione che ha chiuso il contenzioso tra Italia e Libano. Gheddafi a Roma, atteso, tenda, cavalieri, cavalli berri, Berberi, caserma dei carabinieri, Tor di Quinto, questa volta dove avverranno le evoluzioni equestri, lo storico carosello dell'arma dei carabinieri, la cena, e si spera questa volta siano contenuti i danni della varianza, per così dire, all'ultimo secondo dell'agenda ufficiale, e che le istituzioni della Repubblica non facciano quella figura un po' non troppo dignitosa che un anno fa invece attraverso l'inventiva del colonnello che è uno che sa quanto si possa piegare la comunicazione occidentale ai suoi interessi, riuscì in effetti a ridicolizzare un pochino, come abbiamo visto, se mi passate il verbo, anche importanti istituzioni del nostro paese. Ma iniziamo a sentire un po' come la pensate voi. Sentiamo una telefonata che viene da Treviso, non riesco bene a leggere il nome. Yang, leggo bene? Yang da Treviso? Yang. Bene. Buongiorno a tutti. Io vorrei dire una cosa prima di arrivare al nocciolo proprio del mio discorso, perché prima Gheddafi lasciava passare gli immigrati solo per evitare proprio una rivolta, perché era un modo proprio di sbarazzarsi dei senza lavoro. Dopo che c'è stato l'accordo, perché ho amici che vivono lì, c'è un traffico di visto proprio. Chi che riesce a avere il visto passa per l'aereo, che non si è fermato l'immigrazione, anche se non è clandestina. Chi non riesce proprio diventa schiavo oppure muore nel deserto. Allora io, come da immigrato che sono ridotto proprio, costretto a lasciare il mio paese, vedere proprio l'Europa che batte le mani ai vari dittatori di turno, veramente è un orrore per me, cioè, io la dico sinceramente. No, certo. E poi i politici che stanno lì a parlare devono anche fare un giro in Africa, vedere come sono le cose e dopo magari rendersi conto proprio della realtà dei vari paesi. Lei di che paese è originario, se posso chiederglielo? Io sono del Senegal. E poi ne approfitto anche per quello, visto che mi hai fatto una domanda. Il mio presidente ha fatto una statuetta della rinascita che non ha nessun senso, con gente che muore di fame e tutto quanto, che costa milioni e milioni di euro. E per il mondo va bene così, perché non so, cioè, a chi giova proprio quelle cose lì, no ai popolazioni africani. Bene, e questo però è una voce con un'accusa concreta. Sentiamo poi il politico cosa ci dice su questa parte, diciamo, di flusso che si traveste comprandosi un visto rispetto a quello clandestino che veniva invece consentito dagli occhi chiusi delle autorità libiche. Sentiamo come la pensa invece Giuseppe, che chiama da Milano. Giuseppe, prego, dica. Buongiorno Giannino. Ma guardi, io voglio dire una cosa. Quello che ha fatto questo governo, questo Berlusconi, con questa politica estera verso Gheddafi, eccetera, mi sembra una cosa buona. D'altra parte, scusi, ma chi è che deve fare la morale a questa gente? La sinistra? Sa perché le dico questo? Perché ho sentito prima i commenti dei suoi ospiti famosi che ci sono lì, no? Allora, questi commenti sono commenti di sinistra, commenti che siccome questa cosa è stata fatta da Berlusconi e da PDL, non le va bene niente. Se l'avessero fatta loro andava bene. D'altra parte noi rapporti con lui li dobbiamo avere, noi non possiamo fargli la morale, lui è quello che è. Basta che stavo dicendo una parolaccia, non la dico. Basta che faccia ritornare le nostre industrie, che abbiamo bisogno, che ci venda il gas, che ci dia il petrolio e che ci non mandi qua i barconi, che è importantissimo secondo me. Ecco, tutto qua. Se quello che ripeto è: se questa faccenda l'avesse messa a posto la sinistra, andava tutto bene. Siccome... Chiarissimo. L'osservazione di Giuseppe sono due. Primo, la politica estera italiana non è bipartisan e quindi quando ci si alterna al potere tutto quello che hanno fatto gli altri non va bene, e quando si è all'opposizione tutto quello che fa il governo non va bene. Seconda osservazione, il realismo. Il principio del realismo nelle relazioni internazionali deve prevalere sulle critiche idealiste, e quando ci sono leader, lì, quello sta lì dal 69, del resto, alla testa di un paese lo modellano e lo controllano, bisogna avere a che fare direttamente con chi ha il controllo dei paesi per evitare che altrimenti, insomma, primo, altri competano e concorrano alle sue risorse meglio di noi, secondo, che magari poi ti provochi danni, guai dal terrorismo, e con la Libia, insomma, ha avuto un certo ruolo per decenni fino al traffico di clandestini. Allora, sentiamo un secondo Politi su questa batteria di osservazioni. Primo, si è azzerato davvero il flusso dei clandestini attraverso la Libia o semplicemente cambiato forma? E poi, in nome di questo, attenzione al realismo che chi osserva la politica estera deve avere, come ovvio, nella realtà, rispetto agli altri paesi della sponda sud, quanto è fondata la sicurezza che il segno della politica libica rispetto al prelo Kerbi davvero sia mutata? Che tipo di rapporto ha, per esempio, nei confronti delle forze che fanno riferimento invece a Teheran Hamas e Hezbollah, qual è oggi il quadro vero dei rapporti riservati sotto la superficie del regime libico nei confronti di questo magma che bolle sotto la superficie del mondo islamico? Sull'immigrazione la cosa è semplice, perché già prima di questo accordo chi arrivava sui barconi, per quanto fosse molto ripreso dalle TV, era valutato tra il 5, 10, massimo 15% dei flussi illegali nei nostri paesi, dati ufficiali governativi, il resto sono tutti overstayers, quindi che arrivano con un normale visto turistico e si perdono nell'immensità dell'Italia. Non mi stupisce affatto, c'è un articolo del The Independent molto preciso sulle condizioni di chi sta nelle carceri libiche, chi ha soldi esce, chi non ha soldi soffre. E per passare poi invece alla questione del realismo, credo che bisognerebbe smettere di scrivere articoli di colore su Gaddafi e guardare invece la sua politica africana, che è diciamo, la cosa veramente importante dagli anni Ottanta, cioè da quando non solo lo hanno bombardato a Tripoli, più precisamente Reagan, ma da quando soprattutto i francesi lo hanno cacciato dal Chad. Questa è una politica ormai di 20 anni, basata su soldi, influenza, diciamo, attenzione politico-diplomatica, iniziativa, che lo porta a essere presente nella questione sudanese, presente in modo ingombrante nella questione nigeriana, ma per tutte e due i paesi lui propone una partizione, che non è affatto una ricetta libica, è una ricetta americana brillantemente applicata per esempio in Jugoslavia. Quindi Gaddafi ha cambiato politica non solo perché è estremamente astuto, ma perché ha riconosciuto per tempo il cambio di condizioni strutturali del Mediterraneo, dell'Africa e soprattutto del mondo, diciamo, della posizione anche degli Stati Uniti, con un buon anticipo. Quando lui ha consegnato le sue armi di distruzione di massa, quelle chimiche erano serie, quelle nucleari erano praticamente ancora imballate, cioè non esistenti, lui ha evitato di fare la fine di Saddam Hussein, ha lanciato un messaggio molto chiaro di denuclearizzazione a Israele e ha anche mostrato una via agli iraniani, tutto questo rimanendo molto più africano che non panarabo vecchio stile come quando era più giovane. Quindi questo per quello che riguarda le cose di cui si parla meno di Gheddafi. Il realismo è un po' come il pragmatismo, è un'ideologia che sembra facile da spiegare, ma che poi ha un grossissimo difetto, è miope davanti ai cambiamenti epocali. Io ho sentito tanti realisti parlare dell'Unione Sovietica come se fosse eterna, invece poi è crollata. Quindi Gheddafi è importantissimo, direi che se uno dovesse fare analisi politica predittiva dovrebbe cominciare a mettere assieme la successione di Mubarak con quella di Gaddafi, che non è affatto così semplice e scontata come si immagina. Oh, ma è questo regime un uomo che dura decenni e sa modulare la sua attenzione e le proprie iniziative riconducendosi più poi al polo anglosassone, agli Stati Uniti e ai britannici, che ebbero un ruolo nei confronti della decisione di consegnare le armi, di uscire dalle liste dei paesi sospettati, molto maggiore di quanto non ebbero gli italiani, cosa che appunto a conferma di quello che vi sta appena dicendo Politi. Un meccanismo di successione di quel tipo, di che tipo sarà? Familiare, non familiare? Quale Occidente conterà? Politi. Se un meccanismo di successione familiare conterà l'Occidente che è riuscito a tessere meglio i rapporti con il possibile successore, che per ora è molto imprevedibile. Gaddafi si guarda benissimo dal nominarne uno. Però c'è un'altra alternativa, che è quello che contino siano gli apparati di sicurezza, che sono sempre un puntello importantissimo per un regime autoritario che però propone una democrazia diretta a modo suo sulle sponde della Sirte. Ecco, quindi ci sono diverse possibilità. E qualche volta il tentativo di accelerare determinati tipi di successione potrebbe avere effetti boomerang proprio per gli interessi, non dico dei paesi occidentali, che ormai sono una coine culturale e non politica, ma di specifici paesi occidentali, non so, gli Stati Uniti, stessa Italia che, grazie a Dio, non ha di queste ambizioni. Noi apparteniamo a una coinè culturale senza ambizioni politiche, questo è un giudizio sul quale mi ritrovo abbastanza nella politica internazionale. Sentiamo ancora un ascoltatore che ha un'esperienza diretta della Libia. Io tra l'altro devo riconoscere che ha ragione chi sta mandando gli sms dicendo non parlate del contenzioso irrisolto, cioè delle proprietà e delle rivendicazioni patrimoniali degli italiani cacciati dal regime quando prese il potere quindi tra fine anni 60 e inizio degli anni 70. Giustissima causa, devo ammettere, non ne stiamo parlando oggi, un pensiero però a loro tutti, inevitabilmente ritengono di essere del tutto trascurati da questa composizione in nome del realismo dei rapporti tra Libia e Italia. Sentiamo il nostro ascoltatore che è Gianluigi dalla provincia di Cuneo. Che esperienza diretta lei ha della Libia di Gaddafi? Buongiorno, io è da circa un anno che mi trovo a lavorare in Libia. Devo dire che in un anno e poco più ho visto crescere la presenza delle aziende italiane in modo esponenziale. Io so che, per esempio, ci sono delle direttive dove praticamente le aziende italiane vengono considerate aziende privilegiate ed è veramente, c'è un'invasione di aziende italiane dopo l'accordo di Berlusconi con Gheddafi. Io devo dire che nel periodo di maggior crisi io ho visto delle aziende che sono, me l'hanno detto, me l'hanno proprio confermato, sono sopravvissute alla crisi grazie alle commesse libiche. E se dovesse dare un giudizio, adesso non so in che campo l'impresa per cui lavora, edilizia, ecco, è attivo. Ecco, se dovesse dare un'idea della possibilità di lavorare, cioè le condizioni sono buone davvero? Le condizioni sono buone, addirittura ci sono degli accordi tra la Libia e l'Italia che permettono il facile rimpatrio dei denari e degli utili, diciamo, e ci sono tutta una serie di agevolazioni per le aziende italiane. E io devo dire che, tra l'altro, anche laggiù, io certo, se vai giù a fare politica, siamo in un regime di dittatura, quindi non è che puoi pensare di parlare liberamente. Però se le aziende italiane vanno giù per lavorare, ci sono tutte le porte aperte. E questo è successo da dopo il trattato sottoscritto da Berlusconi, esatto, 2 anni fa. Grazie a lei. Ha fatto un bellissimo, certo. In questo caso Berlusconi, secondo me, ha fatto una bellissima operazione. Quindi la clausola privilegiata delle aziende italiane nei confronti delle altre occidentali c'è, toccata sul campo. In previsione dell'arrivo a Roma di Gheddafi con i suoi cavalieri arabi, la sua tenda, sentiamo ancora un ascoltatore prima della riflessione finale che chiediamo al senatore Morando e al senatore Compagna. Sentiamo la voce di Italo che ci chiama da Como. Prego, Italo. Sì, buongiorno. Mi dà l'idea di pagliacciate, dopo ci sono tutte le motivazioni economico, però dal punto di vista strettamente morale, insomma, Gheddafi sappiamo tutti chi è stato, speriamo che sia solo stato e che non è più, e che certe manifestazioni al di là della realpolitik, certe ostentazioni di amicizia, eccetera, insomma, mi sembrano un po' delle pagliacciate. Però Italo, posso farle una domanda? Le chiedo. Prego. Questo, lei si ricorderà quando, prima della firma del trattato, quella volta in cui in una delle tante variopinte innovative uniformi che ogni tanto indossa, perché sì, si propone alternativamente con queste creative uniformi d'alta moda, sì, e poi invece agghindato da leader nomade, ma una volta quando Berlusconi si recò lì, lui ricevette con questa enorme fotografia di uno dei leader della resistenza libica, della Senussi, sia contro le truppe coloniali italiane, appuntato sul petto. A volte in questo colore tra il pagliaccesco e il glamour delle riviste patinate, in realtà Gheddafi molto più e molto meglio di altri autocrati del mondo arabo musulmano è riuscito a utilizzare le armi della comunicazione occidentale per i propri interessi. Allora la domanda che le faccio è: pura pagliacciata oppure diciamo quel pagliaccio lì ha mostrato nei decenni di sapere curare gli interessi del proprio paese con metodi che insomma sono molto discutibili, ma in realtà a volte sono più efficaci di quanto l'Occidente non sappia fare? Lei che impressione ha? Senz'altro sì, ecco. Certo. Ah, perché io penso che Gheddafi sia tutto purché non stupido, un poco intelligente, anzi, cioè, per questo che dico che Dio li fa e poi li accoppia. Ah, Dio li fa e poi li accoppia. Questo mi aspettavo che qualche ascoltatore non potesse fare a meno di una battuta, che però siccome il colore è comune, c'è estremamente una grandissima intelligenza, guardi, da tutte e due le parti il colore è comune, nessuno dei dubbi. Grazie a Italo. Ecco, al di là del colore, la domanda che faccio a Morando invece, siccome sappiamo quanto sia attento poi alle questioni economiche e finanziarie, questa special partnership del capitale libico, che oramai è di lunga data, è pluridecennale e soprattutto prescinde dall'evoluzione che poi dalla composizione che hanno avuto i rapporti politico-diplomatici, perché è una storia lunga che è data da quando i rapporti erano peggio che pessimi e continuata quando la Libia era in cima alle graduatorie dei paesi sospetti di terrorismo, di armi in violazione di accordi internazionali, di distruzione di massa, eccetera eccetera, ed è sempre continuata come un filo rosso, una specie di flusso carsico che ogni tanto si interra ma ricompare al momento giusto, di solito sempre nei patti di sindacato della ex Mediobanca. L'impressione di Morando, che è un osservatore di lungo corso di questo tipo di vicende, qual è? A che cosa si deve davvero il fatto che questi due o tre veicoli finanziari libici e la Banca Centrale Libica abbiano questo rapporto storico così stretto, con alcuni incroci del capitale italiano, quelli proprio in cui il resto del capitale italiano o non mette piede o è guardato con sospetto, come sono guardati come evidente sospetto all'interno di Unicredit i nuovi amministratori che usciranno designati dalle fondazioni in cui la Lega prende più potere? Come la spiega questa vicenda, Morando? Se posso, vorrei fare una battuta su questa storia di come la Lega affronta il tema, certo, del rapporto con le banche, perché se il Partito Democratico o, per la verità, anche il PDL avessero detto sul rapporto tra il loro partito e le banche un ventesimo di quello che sta dicendo apertamente Bossi, si sarebbe scatenato l'ira il finimondo. Cioè, un partito politico nel 2010 in Italia dice: voglio mettere le mani sulle banche, sulla politica del credito, e tutti la considerano una manifestazione interessante di folklore. Sì. Ora, io trovo veramente tutto ciò illustrativo del livello del dibattito, del confronto politico in Italia. Ma diciamo, una volta detto questo, invece io penso che in generale c'è il fatto che la Libia, prima di altri paesi con caratteristiche analoghe, ha sviluppato le sue iniziative utilizzando il meccanismo dei cosiddetti fondi sovrani, no? E in base ad una situazione che vede le grandi imprese italiane quando c'erano, diciamo, in una situazione di difficoltà, di sottopatrimonializzazione, di ricerca sistematica di nuovi partner che si concludeva in modo negativo in Italia, tant'è che lo Stato divenne padrone, ce lo ricordiamo, no? Diciamo, praticamente di tutto l'apparato produttivo fatto da imprese medio-grandi italiane, i libici cominciarono a sviluppare questo tipo di presenza. E io penso che il meccanismo è molto semplice, è quello antichissimo che dice che il denaro non puzza, insomma il meccanismo che è alla base di questa cosa. Dopodiché adesso siamo addirittura al punto che diciamo, per affrontare un problema che non abbiamo saputo affrontare correttamente, e cioè il rapporto tra le fondazioni bancarie e le banche, a mio giudizio avremmo dovuto per tempo mettere in campo una strategia di progressiva fuoriuscita delle fondazioni dal capitale delle banche a tutela delle caratteristiche e degli interessi di entrambi i soggetti. Non l'abbiamo fatto. Adesso, diciamo, per compensare questo tipo di presenza e questa mancanza di iniziativa su quel versante, abbiamo una situazione nella quale paradossalmente, diciamo, siccome mamma mia arrivano gli amministratori nominati di fatto dalla Lega attraverso le fondazioni nelle banche, abbiamo bisogno del capitale libico. È il segno, diciamo, di uno dei tantissimi segni della mancanza di riforme nel nostro paese. Sono totalmente, proprio dalla prima all'ultima parola, d'accordo con quanto ha appena detto il senatore Enrico Morando. I nostri ascoltatori ricorderanno quando con Chiamparino, il sindaco di Torino, noi spiegammo il paradosso della vicenda che rendeva, lo vedeva protagonista da sindaco del PD a Torino, in quanto titolare appunto di una quota rilevante di una fondazione tra i primi azionisti di Banca Intesa, il sindaco diceva: io non è che sia entusiasta di stare qua, perché secondo me le fondazioni dovrebbero starci meno nelle banche, e quindi, come diceva Morando, avremmo dovuto accompagnarle fuori, diversificare e così via, pensare più al territorio eccetera rispetto al loro patrimonio. Però se ci sono, diceva Chiamparino, PD, sindaco di Torino, io intendo esercitare le mie prerogative, cioè che l'amministratore della nostra, espresso la nostra compagnia, sia espresso anche da me, visto che ci sono, faccio l'azionista. Ricordate che cosa avvenne: dall'interno di Banca Intesa si sviluppò una specie di reazione di nucleare, per cui Torino venne nuclearizzata e normalizzata, nel senso che ci sono banchieri che si scelgono gli amministratori. L'autoreferenzialità delle fondazioni da una parte diventa l'autoreferenzialità dei manager bancari dall'altra, tanto che i manager bancari, se poi un azionista vuole fare l'azionista, gli ricordano che è il manager bancario che manda a casa l'azionista e non viceversa. Paradosso di questa vicenda che ci spiega Morando, per cui alla fine i libici sono più affidabili, sono più in sonno, per così dire, rispetto magari ad azionisti più barbari dei libici, che sarebbero quelli leghisti. A me viene molto da ridere a pensare a un paese che davvero pensa che le sue proprie grandi banche abbiano un corso influenzato dagli amministratori eletti in questo modo. Non è così, questo porta solo all'autoreferenzialità dei grandi manager delle grandi banche, che infatti stanno lì per decenni, spesso a prescindere dai risultati. Allora, senatore Compagna, concludiamo un secondo la sua impressione, dovendosi ora tirare le fila di questa specie di Dio li fa e poi li accoppia, anima e core. C'è chi mi ha fatto osservare che le foto di leader Senussi se le mise in petto dopo aver firmato il trattato, quindi tanto per ricordare a Berlusconi: ho firmato il trattato, ma se voglio riprendo a mettermi per traverso. Giustissima osservazione, ringrazio l'ascoltatore che me l'ha fatto. Ma senatore Compagna, lei oltretutto ha anche qualche radice campana, e però in senso europeo, ma comunque glielo voglio chiedere: è il colore il peggior difetto di questo rapporto, oppure c'è una sostanza di cui il colore diventa tanto nella politica di Berlusconi internazionale, quanto poi nelle espressioni alternate di Gheddafi, la vera vernice sotto la quale sì, c'è una sostanza che tutto sommato è abbastanza apprezzabile in nome degli interessi reali? Ma al fondo del trattato, più che il colore, più che l'affidabilità dei banchieri libici, c'è l'idea che l'Italia debba farsi perdonare un colonialismo particolarmente feroce. Allora, a questo proposito, siccome nei prossimi giorni, oltre a cavallerie varie, a cavalli berberi, è previsto anche un convegno sulla storia del rapporto fra l'Italia e la Libia, credo imperniato soprattutto sulle relazioni di Angelo Del Boca e dei suoi discepoli, cioè sulla ferocia del colonialismo italiano in Libia, io però mi augurerei che in sede di discussione storica si abbia anche ben presente che se ci sono oggi dei privilegi in positivo, lo hanno ricordato alcune telefonate degli ascoltatori, per gli uomini d'affari italiani, non sono che l'altra faccia dei privilegi in negativo subiti a suo tempo con la presa del potere di Gheddafi, siamo alla fine degli anni 60, da una generazione di italiani e dai loro discendenti. Che si trovò, ahimè, brutalmente spodestata da un momento all'altro, dopo che per decenni si era adoperata per il paese ed era a quel punto il responsabile, insomma, dei crimini coloniali condotti per lo sterminio, perché furono veri e propri campi di sterminio nei confronti dei Senussi. Bene, fine della riflessione di oggi su Gheddafi. Vedremo quale colore ci riserva imparare, temo, e forse qualcosa che gli serve anche per il prossimo futuro, in cui poi il suo governo è un po' periclitante, ma di questo parleremo in altre occasioni. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. Io lunedì e martedì non ci sarò a questo microfono, quindi Fabio mi sostituisce, ma da mercoledì poi non mancherò mai più, chissà per quanto tempo. Salute adiuvante, per così dire. Grazie in regia a Roberto Scaltritti, grazie in redazione ad Alessandro Marco Tulli, linea al giornale radio, appuntamento quindi con me a mercoledì, a lunedì mattina con Fabio.